so good. Nessuno sapeva se la sua fonte principale di reddito fosse la musica o i suoi traffici illeciti. Dopo il successo di Short Fat Fanny, si era comprato una Cadillac dove aveva fatto incidere a lettere dorate il titolo della canzone. Vestiva ingioiellato, impellicciato e persino con un paio di scarpe argentate con pesci rossi vivi all'interno dei tacchi trasparenti. Si era comprato il Bossa Nova, un club di Los Angeles e una lussuosa villa da $500,000 a Laurel Canyon con un garage pieno di macchine di alta gamma. Now, Junior, behave yourself. Era la tipica immagine del magnaccio o dello spacciatore. Lui era entrambe le cose. Nel 59 la polizia lo becca con armi e coca. Gli danno 18 mesi e la specialty lo licenzia. Quando esce di galera, il rock and roll è finito. Ora è tutto edulcorato e impacchettato e per lui non c'è posto. Behave yourself. Nel 65 si associa con Johnny Guitar Watson per un tour inglese dove si accorge di essere molto più famoso che in patria grazie alle cover dei suoi brani da parte di Beatles e Stones. I know I got the feeling in my soul. L'anno dopo c'entrano in successo con Mercy, Mercy, Mercy, mentre nel 67 meriterebbero molto di più con l'esperimento di soul psichedelico intitolato Nobody assieme ai mitici Kaleidoscope. Negli anni 70 l'abuso di droga inizia a farsi sentire. Paranoia e violenza vanno a braccetto. Arriva a minacciare di far saltare le cervella dell'amico Little Richard per un debito di droga. Nel 73 viene ribeccato per spaccio di eroina e cocaina. Era il pusher principale di Ike Turner per le feste ai Bollick Studio, dove circolava più droga che aria. Il 2 gennaio 1980, la madre, nel garage della lussuosa villa, scopre il corpo senza vita del figlio, con una pipa di crack in una mano e una pistola nell'altra. Il caso è ufficialmente chiuso come suicidio, ma c'è chi assicura si tratti di omicidio. Musicalmente, Larry Williams verrà ricordato per quell'incredibile periodo alla Specialty. Fra aprile 57 e marzo 59, con una serie consecutiva di hit fatti di ritmico ed esuberante rock and roll. Baby, yeah, nascosta come B-side della più facilona Dizzy Mizz Lizzy, c'è uno dei grandi pezzi degli anni 50, temazzo dei temazzi, l'incontenibile Slow Down! Fenomeno dei teen idols e di quel genere chiamato high school ha rappresentato la più grande minaccia per la sopravvivenza del rock. Non che prima non esistessero gli idoli giovanili. Negli anni 40, le ragazzine amanti del jazz e dello swing e che sbavavano per i crooner come Sinatra erano chiamate Bobby Soxers per via dei calzettoni arrotolati alle caviglie. L'ondata dei nuovi rockers degli anni 50, però, aveva messo in allerta i genitori e i perbenisti dell'industria discografica. Quei ragazzacci erano spudorati, esplicitamente erotici, degli autentici ribelli. Erano una pessima influenza perché invitavano a tenere comportamenti antisociali. La loro musica diabolica era responsabile della violenza giovanile e dell'integrazione. Era necessario, anzi prioritario, trovare un rimedio urgente. La prima e soddisfacente risposta per i figli di quei genitori timorati di Dio era stata Pat Boone, che ridicolizzava i classici del rock and roll, vendendo milioni di dischi e facendo stare tranquilli i genitori. Visti i risultati del Red Whitewashing, le discografiche si affrettarono a riempire quel mercato in enorme espansione. La ricetta era semplice. Ragazzo bianco attraente, ben vestito e ben curato, dai modi gentili ed educati, che canta testi semplici sulle preoccupazioni delle scienziali. Era tutto zucchero e marzapane. Le canzoni, con gli onnipresenti coretti, erano così infarcite di arrangiamenti orchestrali da attirare le api. Era un rock privato di tutta la sua vitalità. Falso, come la Gioconda coi baffi. You're so old, this my darling, I've been told, I don't care just what they say. Il primo prodotto con notevole successo di massa è stato Paul Anka, che nel luglio del 57, con Diana, fa capire ai piani alti che la mossa è quella giusta. Da lì in poi ne verranno bizzeffe. Frankie Avalon, Bobby Darin, Fabian, Bobby Riddell e tantissimi altri che venderanno milioni di dischi. Per capitalizzare al massimo la popolarità, molti di loro passarono al mondo del cinema. C'era anche chi aveva compiuto il percorso inverso, dal cinema al canto con esiti disastrosi, come l'ex moschettiera Annette Funicello, Cocky Barnes, Connie Stevens e tanti altri da un solo insignificante hit. Poi c'erano le eccezioni, come Ricky Nelson, Dion o Dale Shannon, che nonostante fossero confezionati come idoli giovanili, ogni tanto lasciavano scappare qualche lampo del loro talento, ingabbiato dall'industria discografica. I'm walking, yes indeed I'm talking. Per uno di loro, Eric Hilliard Nelson, è stata coniata l'espressione teen idol. Con 9 anni, assieme al fratello Dave, partecipa al seguitissimo show radiofonico dei genitori. Le avventure di Ozzy e Harriet, iniziato nel 1949, è un seguitissimo programma settimanale dove la famiglia interpreta se stessa. Il successo è tale che nel 52 passa in televisione, diventando una delle sitcom più seguite del paese e che durerà fino al 1966. Gli americani vedono crescere in televisione il piccolo Eric Hilliard, per tutti ricchi. Con l'esplosione del rock and roll, impazzisce per gli artisti della Sun, Elvis, Carl Perkins e Johnny Cash. Nel 57, per impressionare una ragazza amante del cantante dalle anche ondeggianti, decide di registrare un disco. Il padre gli trova un contratto con la Verve dove incide 3 brani. Questa versione rockabilly di I'm Walking del pioniere Fats Domino, grazie al programma televisivo come trampolino di lancio, vende 1 milione di copie e si classifica al 4º posto. Ancora meglio fa il lato B, il ballatone A Teenager's Romance, che arriva seconda nella classifica pop. A teenager's romance is fickle or true. Lascia la Verve per un lucrativo contratto con la Imperial, la casa del pioniere Fats Domino. Il proprietario, Liu Chad, mette a disposizione di Ricky una band di all-star, cappeggiata dal fenomenale chitarrista James Burton. I risultati non si fanno attendere. Ricky inanella una serie consecutiva di hit da paura. Dal 57 al 64, grazie anche alla promozione televisiva, metterà più di 50 singoli in classifica, avvalendosi di grandi compositori, gente del calibro di Baker Knight, Jerry Fuller e i fratelli Burnett. Condannato dall'etichetta di idolo adolescenziale e quindi di rocker poco credibile, ha dato mostra della sua autenticità con qualche pezzo di puro rockabilly, come questa perla scritta dai fratelli Burnett con un grande assolo di James Burton intitolata Believe What You Say. I believe what you say when you say you're going steady with nobody else but me. I believe what you say when you say you don't kiss nobody else but me. I believe, pretty baby. Believe you're going steady with nobody else but me. Well, there's one thing, baby, that I want you to know. When you're rocking with me, don't rock too slow. Move on and get toe-to-toe. We're gonna rock till we can't rock no more. I believe, pretty baby. Believe you're going steady with nobody else but me. Well, let's dig it now. Well, I believe what you say when you say you don't miss nobody else but me. I believe what you say when you say you don't kiss nobody else but me. I believe, pretty baby. Believe you're going steady with nobody else but me. Kiss my baby, then you roll your eyes. I get a funny feeling that I'm hypnotized. Chills run all up and down my spine. Tell everybody that you're mine, all mine. I believe, pretty baby. Believe you're gonna steady with nobody else but me. Oh yeah. Aveva solo 17 anni quando ha scritto e inciso il suo unico hit, l'unica cosa per la quale è ricordato. Robert Thomas Freeman, come tanti giovani afroamericani, si era fatto le ossa nei gruppetti di doo-wop che cantavano agli angoli delle strade di San Francisco. Nel 1956 con i Romancers aveva avuto un hit locale, ma l'esperienza finisce subito. È un DJ locale che lo convince a provare la strada in solitario a registrare delle demo. Con un budget limitatissimo, registra 4 pezzi con la strumentazione ridotta all'osso. Freeman al piano è accompagnato solo da un batterista che suona le congas. I DJ consegna i nastri al vicepresidente della Jubilee Record, che si trovava a San Francisco in luna di miele. A Mortimer Palaite quella roba piace parecchio, così decide di firmare il ragazzo e manda a New York a sovraincidere 2 di quelle demo da musicisti professionisti. Il single pubblicato sulla filiale Josie, con questa Big Fat Woman sul lato B, è pubblicato in marzo ed è subito un successone. Con gli anni diventerà un classico del rock con numerose versioni, fra le quali spiccano quelle di Cliff Richard, Beach Boys e una spettacolare dei Ramones. La sua popolarità raggiunge l'apice quando va in TV su American Bandstand. Fa pure dei tour con Fats Domino, i Coasters, James Brown e Jackie Wilson. Ma il single successivo, Betty Lou Got a New Pair of Shoes, sa tanto di minestra riscaldata e la fiammella del successo piano piano si spegne fino a restare senza gas. Di Bobby Freeman ci si ricorda solo per la lattineggiante Do You Wanna Dance? classifiche negli Stati Uniti erano ben compartimentate. C'era quella rhythm and blues per gli afroamericani, quella country per i bianchi delle classi meno abbienti e infine quella pop per i benestanti, di pelle bianca ovviamente. Nonostante sia giustamente considerato come il padre del rock, le classifiche non l'hanno mai premiato. Con gli 11 singles pubblicati, aveva raggiunto la vetta della classifica rhythm and blues, ma solo 5 erano entrati nella top 10 di quella pop senza mai arrivare in cima. Aveva contribuito però, assieme a tutti gli altri pionieri del rock, al crossover fra le classifiche, a far sì che tutti i ragazzi avessero idoli in comune a prescindere dalla razza. Quei rockers hanno partecipato direttamente all'abbattimento delle barriere razziali. Infatti, è nei loro concerti dove ci sono i primi episodi di integrazione, quando bianchi e neri ballano al ritmo della stessa musica. Il primo settembre del 57 aveva partecipato al Biggest Show of the Stars, uno spettacolo che in 3 mesi gira tutti gli States e includeva parecchi big dell'epoca. Dopo il tour, torna a Chicago negli studi della Chess per registrare del nuovo materiale. Da quelle session del 29 dicembre e 6 gennaio verrà ricavato del materiale preziosissimo. La prima uscita era stato il classico Sweet Little 16, tenuto al secondo posto della classifica pop da Tequila dei Champs. In marzo ne arriva uno epocale, un doppio lato A. Nella flip side c'è un brano coverizzato da Stones, Animals, David Bowie, Grateful Dead e Flaming Groovies, che diventerà un classico del rock. Around, around. They say the joint was rocking, going round and round. Yeah, reeling and rocking. What a crazy sound. Will it never stop rocking till the moon went down? Oh, it sounds so sweet. But gotta take me a chance. Rose out of my seat. Just had to dance. Started moving my feet. Well, clapping my hands. Well, the joint started rocking. Going round and round. Yeah, reeling and rocking. What a crazy sound. Well, it never stopped rocking till it moved. Really don't. prima balbettavo, ma da quando ascolto Cioccolato Bianco canto ba ba ba ba ba Bran. Baby doll, when bells ring out the summer breeze. Oh baby doll, will it end for you and me? We'll sing old alma mater and think of things that used to be. Johnny Johnson aveva imparato a suonare il piano da solo. Durante la Seconda Guerra Mondiale aveva suonato nell'orchestra dei Marines. Tornato a casa, pensa di poter vivere della musica, così forma il Lonnie Johnson Trio per suonare nei locali di Chicago e St. Louis. Con l'entrata di Chuck Berry al posto del sassofonista Elvin Bennett, il gruppo aveva cambiato nome in Chuck Berry Combo, ma l'importanza del pianista rimaneva centrale. Johnny aveva un grande senso del ritmo e molti dei suoi riff pianistici diventeranno immortali alla chitarra di Chuck. Johnny, però, aveva un problema con la bottiglia. Quando esagerava, Berry gli ripeteva sempre la stessa frase. Fai il bravino, Johnny. Inizialmente il testo, sintesi perfetta del sogno americano, conteneva l'espressione Colored Boy, ma per evitare problemi con le radio, l'aveva cambiato in Country Boy. Per il titolo, aveva deciso di usare la frase che ripeteva Johnson quando alzava troppo il gomito. A quel good di Fai il bravo aveva aggiunto una E finale, in ricordo al 2520 di Good Avenue, il suo indirizzo a St. Louis. Il brano era stato inciso in un disco d'oro che, oltre alla musica, conteneva i suoni del nostro pianeta e i saluti in 55 lingue. La creazione della playlist aveva creato certa polemica. Perfetti grandi della musica colta, Bach, Mozart, Stravinsky, passabili per un pelo Louis Armstrong e Blind Willie Johnson, ma inserire musica da ragazzini proprio no. La risposta del compilatore Carl Sagan era stata secca. Sulla Terra ci sono milioni di adolescenti. Dischi d'oro per le sonde spaziali Voyager 1 e 2 erano stati lanciati nello spazio nel 77. L'obiettivo era di dare un'idea del nostro pianeta a forme di vita extraterrestre. In un divertentissimo sketch del Saturday Night Live, il comico Steve Martin mostra la copertina del Time con un messaggio degli alieni dopo aver ascoltato il disco. Il titolo recitava Sam Moore Chuck Berry. Per il riff iniziale aveva copiato non Marty McFly, ma la intro di Carl Hogan del classico Ain't That Just Like a Woman di Louis Jordan. La differenza è che Chuck, invece di suonare una sola corda, usa la tecnica di T-Bone Walker. Suonandola su due corde, crea un memorabile riff incendiario, quello di Johnny B. Good. Stood a log cabin made of earth and wood. Oh my, but that little country boy could play. Go, go, go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Johnny, be good. Era stato amore a prima vista. L'aveva allocchiata nel seminterrato della sua casa a New York. Aveva 5 o 6 anni e stava facendo le pulizie assieme al padre. Era lì, appesa al muro. Con la tipica curiosità dei bambini, chiede cosa fosse quello strano strumento. Il padre risponde che quella era una chitarra e gli era servita per conquistare sua madre. La imbraccia e strimpella qualche accordo. Il bambino rimane sbalordito e decide di imparare a suonarla. In pochi anni diventa un discreto chitarrista, influenzato dai maestri del jazz e della musica Ellie Billy. Quando ha 13 anni, si trasferisce in Arizona, dove la famiglia apre un alimentari. È proprio nel negozio che il padre suggerisce a un cliente, il DJ locale Jim Doyle, di registrare un pezzo con suo figlio chitarrista. Il risultato, Spinning Wheel, del suo grande idolo Chet Atkins, viene suonato nel programma mattutino della radio. L'abilità del chitarrista non passa inosservato a Jimmy Delbridge, un pianista che frequentava la sua stessa scuola. Lately I've been spending all of my time down at the soda fountain when I can get a dime. Decidono di formare una band assieme ad altri coetanei con un repertorio di country campagnolo. I won't be happy until she is mine. Durante le prove conoscono Lee Hazlewood, un DJ appena uscito dalla scuola di radiodiffusione, che diventa loro manager e pubblica nel 1955 a nome Jimmy and Wayne un singolo che ancora puzza di stalla. Grazie al DJ scoprono Elvis. Per Dwayne è un'illuminazione, mentre per Jimmy è una blasfemia. Si rifiuta di suonare quella musica mondana e abbandona. Il chitarrista suona nei peggiori honky tonk del sud assieme alla band di Buddy Long. Poi entra in quella di Al Casey, dove perfeziona ulteriormente il suo stile. Quando Raunchy di Bill Justice entra in classifica, decide di comprarsi la chitarra dei suoi sogni. Una Gretsch, modello Chet Atkins. Visto il clamoroso successo del brano, Hazlewood gli suggerisce di provare a scrivere uno strumentale. primo tentativo è questo scoppiazzamento di Brown Eyed Handsome Man di Chuck Berry, intitolata Moving Groovin'. Il pezzo inaugura lo stile twangy, un particolare sound metallico denso e nasale che, grazie all'enorme carico di eco e vibrato, diventerà il suo marchio di fabbrica. Quel suono che farà scuola è merito di una genialata di Lee Hazlewood. Vista la poca disponibilità economica, compra una vecchia cisterna da più di 7.000 litri e la fa installare nel parcheggio degli studi. La Gretsch di Duane, passata per quella specie di sommergibile, acquista un originalissimo effetto eco. Il DJ porta i nastri delle registrazioni agli studi Goldstar di Hollywood, dove aggiunge il saxofono di Jill Bernard e le urla e i battiti di mani di un gruppo doo-wop, gli Sherp, che qualche anno più tardi, con il nome di Rivingtons, spaccheranno con il classico Papa Umamamao, Papa Umamamao. Il risultato consegna la storia alla chitarra vibrante di Duane Eddy con il classico Rebel Rouser. Twang! Nelle vene del primo grande chitarrero scorreva sangue dei nativi americani. La madre era di etnia Suenì e assieme al marito si dedicava a predicare la parola di Dio a Dan, nella Carolina del Nord. La povertà era estrema, ma la dieta musicale dei fratelli Vernon, Fred Lincoln e Doug era ricchissima, dal gospel della chiesa al blues rurale, innaffiato con la musica e il libilli che usciva dalla radio. La prima chitarra che entra in casa è per il maggiore Vernon, ma presto passa nelle mani di Fred Lincoln, che riceve le sue prime lezioni da un artista circense itinerante soprannominato M-Bomb. Negli anni 40, aiutati dal governo, si trasferiscono in Virginia. La scelta è azzeccata, le condizioni economiche migliorano e permettono ai fratelli di formare una band. I Lucky Ray and the Palomino Ranch Hands suonano sostanzialmente western swing. Sono capeggiati da Vernon, soprannominato Lucky per la sua passione per il gioco d'azzardo alla chitarra ritmica e voce, Doug alla batteria e Fred Lincoln, per tutti il link, alla chitarra solista che si rifà molto alla leggenda del jazz Les Paul. Deve abbandonare però i fratelli perché lo zio Sam lo chiama per andare in Corea a difendere il 38esimo parallelo dall'invasione comunista. Durante la guerra contrae la tubercolosi che rende necessaria l'asportazione di un polmone. Passa un anno intero in quarantena. Non potendosi dedicare al canto, si concentra sulla chitarra. Quando la radio sente Elvis, decide di mettere da parte il jazz e il country e passare al rock and roll. Nell'inverno del 58, durante un concerto a Fredericksburg in Virginia, qualcuno del pubblico chiede di suonare The Stroll, un pezzo danzereccio dei Diamonds. Nessuno conosceva il brano. Doug si fa avanti e dice che bastava suonare qualcosa alla chitarra. Così Link improvvisa quegli accordi che diventeranno eterni. Il pezzo lascia il pubblico di stucco. Non si era mai sentito niente di simile. Chiede prima il bis e poi il tris di quello strano strumentale. Il gruppo decide di registrarlo. Cambia il nome in Link Ray and His Rain Man e firma per la Cadence, la casa degli Everly Brothers. In studio di registrazione ci sono dei problemi. Link non è soddisfatto. Il suono che esce è troppo pulito, troppo country. Dal vivo era così potente e gracchiante che faceva impazzire il pubblico. Nel tentativo di sporcare il sound, inizia a bucherellare l'autoparlante dell'amplificatore con una penna. Il risultato è qualcosa di inaudito, ma al proprietario della Cadence, il conservatore Archie Blair, non piace affatto e lo accantona. Una sera, sua figlia adolescente organizza una festa e decide di prendere qualche disco del padre. Quel pezzo, intitolato Oddball, aveva fatto furore. In molti pensavano evocasse una rissa di strada fra gang rivali. La ragazza suggerisce al padre di cambiare il titolo e usare un'espressione sinonimo di combattimento molto in voga nello slang giovanile. Il brano sia per il titolo sia per la proposta musicale, è censurato dalle radio perché sostengono inciti alla violenza. Strano, visto che si tratta di uno strumentale. Nonostante il boicott, il brano vende 1 milione di copie e illuminerà il cammino ai nuovi Guitar Hero che verranno. Link Wray dà uno scossone sismico al mondo del rock con l'epocale Rumble. Run, run, run. The golden head. Great big idol with the golden head. Put it on a shelf right above my bed. Great big idol with the golden head. Got down on my knees and began to pray. Great big idol with the golden head. I said, idol, tell me where's my big foot made. Sono stati il gruppo vocale più allegro e divertente di sempre, nonché il progetto personale di Mike Leber e Jerry Stoller. Si erano formati dalle ceneri dei Robins e con il nome di The Coasters avevano ottenuto nella primavera del 57 quel doppio successone di Searching e Youngblood. Al gruppo viene imposto dall'Atlantic di trasferirsi nella East Coast, a New York, ma due di loro, il fondatore Bobby Nunn e Leon Hughes, si rifiutano e rimangono a Los Angeles. All'inizio del 58 nasce la formazione storica dei Coasters, quella con i tenori Cornell Gunter e Carl Garner, il baritono Billy Guy e l'inconfondibile basso di Willie Dub Jones. In aprile esce il primo single della nuova formazione, che schizza direttamente in cima alle classifiche pop e rhythm and blues, vendendo oltre 2 milioni di copie. È l'ennesima perfetta composizione di Leiber e Stoller. Un piccolo quadretto che rappresenta il conflitto generazionale fra i nuovi teenagers e i loro genitori conservatori. Il testo, come sempre irriverente contro le istituzioni e l'autorità, dipinge un adolescente oppresso dall'enorme carico di lavori domestici. Erano a casa di Mike Leiber per scrivere qualche pezzo. Quando Jerry Stoller inizia a suonare un ritmo allegro al piano, il suo socio in cucina. Quando lo sente suonare, gli urla: tira fuori i giornali e la spazzatura! E Stoller risponde: altrimenti non avrai i soldi! Si scambiano varie battute e in 10 minuti il brano è pronto. Il pezzo, impreziosito dallo spettacoloso sassofono di King Curtis, prende il titolo dalla risposta del ragazzo agli esigenti genitori. Yakety Yak, qualcosa come... Un cicassato, cazzo! Don't talk back. Just finish cleaning up your room. Let's see that dust fly with that broom. Get all that garbage out of sight, or you don't go out Friday night. Yakety yak. Don't talk back. You just put on your coat and hat and walk yourself to the laundromat. And when you finish doing that, bring in the dog and put out the cat. Yakety yak. Don't talk back. Don't talk back. Yakety yak, yakety yak. Yakety yak, yakety yak. Yakety yak, yakety yak. E per stavolta è tutto, gente. Nel ricordarvi che la vostra felicità è anche la mia, vi do appuntamento al prossimo episodio di Cioccolato Bianco. La storia del rock, quella vera.